Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 26 giugno, il sole in regione sorta alle 5.17 e tramonterà alle 21.03. Mercoledì c'è luna nuova e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Lillo Montalto Monella. L'approfondimento di oggi di Vita nei Campi è ancora in terreno biologico, tra vecchi e nuovi seminativi, ovvero sfruttare l'alternanza, ma anche le opportunità di colture che rispondano alle esigenze mutate dell'agricoltura. A seguire per le storie del professor Floramo, i magici momenti della merenda, che per la gente dei campi non era solo una sosta tra le fatiche del lavoro, ma anche occasione di convivialità. Ci sono nuove disposizioni in materia di cereali e sfarinati con l'introduzione di un nuovo, l'ennesimo, registro. Tutti li chiamano emoli, ma scientificamente si tratta dei mirabolani, parenti non troppo alla lontana delle susine, che hanno conosciuto qualche fortuna negli orti e nei giardini degli anni passati. In tema di api, oggi parliamo dei loro antagonisti e malattie e di come spetta anche all'uomo difendere gli alveari. Per la rubrica delle piante, oggi alcuni consigli su come disporre al meglio le grandi caducifoglie dei nostri giardini. Andamento dei mercati agricoli in regione, previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. Gli approfondimenti di Vita nei Campi e nei vari settori dell'agricoltura in Friuli Venezia Giulia oggi incontrano, per la terza puntata che dedichiamo all'agricoltura biologica, Cristina Micheloni, che affronta il tema dei seminativi tra vecchie e nuove colture. Una differenza importante rispetto ai seminativi convenzionali è il fatto che in bio è fondamentale la rotazione delle colture, con tanto di requisiti minimi per essere certificati. Quindi qualunque azienda bio non produrrà mai una sola coltura, ma almeno tre o quattro, meglio se anche di più. Che cosa si produce? I cereali autunno-vernini, come il frumento, l'orzo e il farro, sono piuttosto semplici da gestire in bio e quindi compaiono sempre nella rotazione. Ma anche la segale per uso panificatorio, un po' di avena sempre per uso alimentare e c'è spazio anche per quelli che vengono usualmente definiti cereali antichi. Si tratta in realtà di qualche vecchia varietà di frumento, vecchia, non antica, come il Verno, il San Pastore o l'Abbondanza o il Senatore Cappelli. Interessanti perché meno esigenti in termini di fertilità del suolo, talvolta, ma non sempre, più resistenti ai patogeni e con qualità sensoriali e nutrizionali di pregio. Più interessante è l'uso delle composite, ovvero materiale genetico eterogeneo derivante da migliaia di incroci, e in grado di adattarsi ed evolvere con il territorio, il clima e l'agricoltore che lo coltiva. Vengono comunemente chiamati miscugli, come il nostro preferito miscuglio Ceccarelli o Solibam, ma dietro c'è ben più lavoro del semplice mescolare. Si coltiva poi con buon successo in regione la soia biologica, sia per uso zootecnico che per uso umano. Diciamo che è una delle colture con cui si potrebbe caratterizzare il seminativo biofriulano, perché qui indubbiamente cresce bene, sia come prima che come seconda coltura. Essendo una leguminosa si arrangia per l'azoto e non ha particolari fragilità. Anche il controllo delle malerbe, essendo una buona rotazione con adeguata attrezzatura meccanica, non presenta particolari difficoltà. Peccato che buona parte del valore aggiunto legato a stoccaggio, lavorazione e commercializzazione vada fuori regione. E peccato anche per il fatto che l'utilizzo zootecnico sia ancora quello predominante. In crescita, con qualche incertezza, anche il girasole, sia quello alto oleico che quello alto linoleico, che se la giocano più o meno alla pari. Molto interesse per il colza, anche se il controllo delle meligete richiede delle strategie agronomiche un po' più complesse, ma diciamo che ci stiamo lavorando su. Negli ultimi 3 anni è ricomparsa pure la barbabietola da zucchero. Si stanno consolidando delle filiere molto interessanti attorno al miglio e al grano saraceno, colture estive per uso alimentare, che anche in caso di siccità non si scompongono granché, così come il sorgo da granella per uso zootecnico. Molto interessante, ma si sa che è la mia passione, l'evoluzione positiva nella coltivazione di tutte le leguminose da granella, come il pisello, cece e lenticchia, che sono riapparsi pochi anni fa nelle campagne friulane e stanno pian piano conquistando spazio. L'interesse dei consumatori c'è, e tanto. Quello su cui si sta lavorando sono le tecniche di coltivazione, soprattutto attraverso la consociazione con altre colture, come per esempio i cereali autunno-vernini. E la Blave? Profetica fu una serie di incontri che AIAB FVG organizzò nel 2014 fra il Medio e il Basso Friuli, dal titolo «Tirin fure il Tiab de Blave». Ebbene, di mais se ne fa ben poco in bio in Friuli ed essenzialmente per uso umano, polenta ma anche gallette. Ma perché? Perché richiede troppo in termini di energia, acqua, lavoro, fertilizzanti e ritorna troppo poco in termini economici se va sui mercati globali e peggio con peggio se per uso zootecnico. Diverso è per chi se lo macina in proprio e arriva sul mercato con la farina o il prodotto pronto, che sta ancora meglio se utilizza varietà locali e spesso autoprodotte. Non si intenda che il mais in bio non si può fare, non è quello ciò che intendo, ma lo ripeto, si può fare nel contesto giusto, dove ci sono i terreni fertili e disponibilità di acqua, nella giusta rotazione colturale e con la giusta remunerazione. Manca un attore fondamentale nella coltivazione biologica dei seminativi, i sovesci, autunno-vernini, estivi, di leguminose, di miscuglie, in tutta la fantastica diversità di composizione e scopi che li caratterizza. Sono un elemento essenziale alla rotazione, senza i quali ogni altro ragionamento su meccanizzazione, scelta varietale, scelta dei fertilizzanti è aleatorio. Come dice Jeff Moyer del Rodale Institute in Pennsylvania, il sovescio è la coltura su cui concentrare attenzioni e investimenti. Fatto bene quello, tutto il resto va di conseguenza e va in discesa. Per concludere, nei prossimi anni il settore dei seminativi sarà verosimilmente quello che andrà incontro a maggiori cambiamenti e vedrà aumentare in modo significativo la sua parte di bio. Lo spazio c'è, ma bisogna tirar fuori il chiave de blave in tutti i sensi e pensare a colture diverse, per usi diversi, con tecniche agronomiche e strategie che poco hanno a che vedere con il business as usual. Gli esempi ci sono. La dura vita nei campi aveva anche momenti di sosta, di riposo, pause particolarmente apprezzate, tanto da entrare nell'immaginario collettivo della gente dei campi. Uno di questi momenti era la merenda, la merinde, che oggi ci racconta nelle sue storie Angelo Floramo. I lavori della mietitura rappresentavano per la comunità un periodo di lavoro particolarmente intenso, che si protraeva dalle prime luci del giorno fino a quando il sole, con le sue sferzate crudeli, non obbligava ad abbandonare i campi cercando nell'ombra degli alberi un po' di refrigerio e di frescura, capaci di galvanizzare tanto gli uomini quanto gli animali. Era quello il tempo della merenda, una voce latina antica, bellissima e piena, tanto da coccolarsene in bocca il nome prima ancora del suo contenuto, le merinde. Deriverebbe dal verbo mere or mereri, nella sua forma gerundiva che implica sempre un dovere da assolvere. Merenda, dunque, è ciò che ci si deve meritare. Qualcosa di profondamente buono, però, a tal punto che per conquistarselo è opportuno dare prova indiscutibile di solerzia, dedizione, tenacia. Mai mollare, anche quando la schiena curva sulla falce protesta con la voce del dolore, i calli delle mani bruciano sul legno e il sudore ha reso madido il fazzoletto sotto il cappello di paglia, che quasi non protegge nemmeno più dalla rabbia della luce. Un servizio reso per il bene comune, dunque, e che dovrà essere ricompensato, dal momento che le energie consumate necessitano di essere presto ricreate, nel tempo, appunto, della ricreazione, per poter essere al meglio impegnate in un'altra occasione. Già nei lavori della sera, ad esempio, che non potranno certo essere trascurati per la fatica del giorno, la mungitura, il bestiame da rigovernare, gli attrezzi da riporre affinché siano pronti per domani. Quello che i falciatori custodivano nella parte più protetta del carro, proteggendone della calura il prezioso contenuto con foglie fresche e frasche, era un cestino di vimini intrecciato, un jay, dentro il quale la tradizione, che si appella sempre al buon senso, vuole si riponessero alimenti facili da consumare e da digerire, e al contempo capaci di dare nutrimento e soddisfazione a chi, sul bordo erboso dei campi, ne gustava la meritata ricompensa. Così ricorda Caterina Percotto: «L'or si dà, come per mancia, qualche soldo e delle uova per la merenda, cosicché di queste merendulce, qui e colà, nell'ombra dei pioppi, dietro la riva che fiancheggia la strada di Palma, per tutto il prato se ne vedeva. Uova sode, dunque, qualche crosta di formaggio, forse una frittata impastata con erbe e cipolle, e l'immancabile cunine, il bottiglione con un vino rosso, leggero, appena appena frizzantino, fresco, come un bacio che sa di terra e di fatica». Per monitorare le produzioni cerealicole sul territorio nazionale, il Ministero delle Politiche Agricole ha introdotto l'obbligo di un registro telematico di carico a scarico. Ce ne parla Marco Maldison, responsabile tecnico economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia. La guerra in Ucraina, con il blocco della movimentazione dei cereali nei porti del Mar Nero, ha reso evidente l'importanza di un monitoraggio degli stock di derrate alimentari strategiche. Tuttavia, il provvedimento di cui parliamo oggi è l'attuazione di una legge emanata già nel 2020 a seguito dell'impegno assunto tanto in sede comunitaria che tra i paesi del G20 a comunicare i dati delle produzioni cerealicole e delle riserve nazionali. Ecco che, con decreto del 29 marzo 2022, il Ministero ha adottato le relative procedure applicative con l'istituzione di un registro telematico che per ora è facoltativo, ma con la fine del prossimo anno diventerà obbligatorio. Chi sarà obbligato alla tenuta del registro? Tutti gli operatori che detengono, acquistano o vendono quantitativi superiori a 30 tonnellate annue di cereali o sfarinati. Sono invece esonerati quanti riempiegano le loro produzioni in ambito aziendale, anche per uso zootecnico, e quanti trasferiscono il raccolto subito dopo la trebbiatura a strutture private o associative. Saranno infatti queste ultime ad accollarsi l'obbligo delle registrazioni. Come funzionerà questo registro? Come per altri prodotti, esempio vino, olio, sostanze zuccherine, latte trasformati, il Ministero mette a disposizione via web delle procedure sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale totalmente gratuite. Chi vuole potrà usare anche applicativi aziendali purché in grado di trasferire i dati sul SIAN. Le registrazioni di carico e scarico dovranno essere fatte entro il giorno 20 del terzo mese successivo alla movimentazione e riguarderanno frumento, sia tenero che duro, mais, orzo, farro, segale, sorgo, avena e miglio. Per frumento, orzo e mais dovranno essere registrate anche le semole e le farine. Oltre ai quantitativi, per ogni movimentazione, verranno indicati gli estremi del mittente e del destinatario, la provenienza, nazionale, paesi UE o paesi terzi, eventuali certificazioni DOP e IGP, nonché eventuali certificazioni bio o SQNPI. Non sembra particolarmente complicato. Attenzione però che con il 1 gennaio 2024, quando cioè scatterà l'obbligo, per gli inadempienti sono previste sanzioni molto salate che possono arrivare anche a 20.000 euro e alla sospensione dell'attività. Nella tarata di alberi da frutto, che sta volgendo al termine, il professor Raffaele Testolin non ha dimenticato quei susini particolari che passano comunemente sotto il nome di emoli e che dal punto di vista scientifico sono i mirabolani. In una delle puntate scorse, parlando di susine, abbiamo parlato di cespis. In realtà ci sono anche quei frutti che i friulani chiamano emoli. Per alcune persone anziane, condizionate dai ricordi dell'infanzia, gli emoli sono delle susine a frutto piccolo, spesso con buccia gialla o rossa, che dal punto di vista scientifico sono dei mirabolani, cioè dei susini selvatici, usati oggigiorno solamente come portinnesti. Emoli sono considerati spesso anche dei susini ormai abbandonati, che appartengono al susino europeo, come le mirabelle e i sangiuliani. Infine, per alcuni amici, agli emoli sono da scrivere anche susine di vari colori a frutto grosso. In questo caso parliamo di susini cino-giapponesi che abbiamo importate in Italia dagli Stati Uniti agli inizi del secolo scorso e sono frutto di selezione di susini asiatici o frutto di ibridazione tra susini asiatici, botanicamente Prunus salicina, e susini spontanei degli Stati Uniti. Le ibridazioni sono state fatte agli inizi del XX secolo da un breeder molto noto di nome Burbank, che ha tentato di unire le qualità organolettiche dei susini asiatici con la rusticità di alcune specie di susini americani. Queste susine, dai nomi che suonano molto italici come Gocce d'Oro o Santa Rosa, sono in realtà degli ibridi creati negli Stati Uniti. Voglio solo ricordare ai nostalgici dei mirabolani che se vogliono coltivare questo tipo di emoli non hanno altro da fare che andare nei boschi o lungo le strade e moltiplicare quello che trovano interessante, con la garanzia che hanno a che fare con piante rustiche che difficilmente si ammalano. Per gli appassionati degli emoli a frutto grosso devo dire che la coltivazione non è facile, Si tratta di piante piuttosto delicate che si ammalano facilmente. In questa serie di contributi sul mondo delle api, Moreno Greati ci ha descritto un insetto pressoché perfetto, una macchina da guerra, che però ha anche le sue avversità. Le api, come tutti gli altri esseri viventi, hanno i loro nemici e le loro malattie che possono colpire le api adulte, la covata o entrambi gli stadi. I nemici delle api appartengono a diverse classi di animali e ci fanno comprendere come esse siano integrate nell'ambiente in cui vivono. A tale proposito ricordiamo i mammiferi, orsi, topi, l'uomo stesso, gli uccelli, il gruccione, il falco pecchiaiolo, gli uccelli insettivori in generale, i rettili, i ragni e gli altri insetti come vespe, calabroni e mantidi. Tra le malattie invece ci sono batteriosi, micosi, virosi e parassitosi determinate da acari. Particolarmente pericolose sono le infezioni batteriche, che si trasmettono con estrema facilità tra gli alveari di un apiario e per le quali non ci sono metodi di lotta se non la distruzione delle colonie infette. Fra le parassitosi, quella che provoca i danni maggiori è la varroasi, causata dall'acaro varroa, un acaro che a seguito dell'ampliamento dell'areale di diffusione dell'ape da miele è passato dall'ospite originario, l'apis cerana, un'altra specie di ape, sull'ape mellifera, trovandola impreparata. Questo acaro è oramai diffuso in tutto il mondo, complice il commercio di regine, di sciami e il nomadismo. In Italia è presente dal 1981. Fatte queste brevi considerazioni sulle avversità delle api, vorrei spendere due parole su quale sia il futuro per le api da miele. Fare apicoltura sta diventando di anno in anno sempre più difficile e gli apicoltori con qualche lustro di attività se ne rendono conto benissimo. Le cause di ciò sono diverse e imputabili a più fattori. Innanzitutto i cambiamenti climatici, con lunghi periodi di pioggia primaverili ed estati molto calde e siccitose, riducono drasticamente le produzioni. Sempre più di frequente gli apicoltori, invece di raccogliere il miele per far sopravvivere le colonie, sono costretti ad alimentarle. Poi ci sono i danni provocati dagli avvelenamenti da pesticidi che hanno fatto passare in secondo piano le altre avversità. Mentre la drastica riduzione delle aree verdi, boschi, siepi, fossi, la cementificazione, l'agricoltura industrializzata, la perdita di biodiversità vegetale contribuiscono ad aggravare la situazione. Infine i nuovi nemici e malattie, la varroasi è un esempio, che si diffondono con estrema facilità con la complicità dell'uomo. Comunque, nonostante tutto, le api continuano a sopravvivere, grazie all'uomo apicoltore che la alleva, spesso più per passione e per ammirazione che per un tornaconto economico. Per la rubrica Amici Alberi, con l'arboricoltore Giorgio Valvagion, avevamo parlato di caducifoglie, quelle piante piccole per giardini piccoli, ma abbiamo anche caducifoglie grandi per giardini grandi. Come comportarci, come sceglierle e come progettare la loro presenza nei nostri giardini? L'importante è collocarle nella distanza fra pianta e pianta, la distanza giusta. E io consiglierei dai 20 ai 30, anche 40 metri. Se uno ha spazio non deve aver paura che l'albero gradualmente si espande e ha bisogno appunto di abbastanza spazio fra una e l'altra per evitare la concorrenza aerea della chiome e dell'apparato radicale. Così avremo degli alberi che in pratica non hanno paura di qualsiasi colpo di vento come sta succedendo oggi. Parlando delle grandi caducifoglie, bisogna anche dire che deve esserci una scelta estetica nel loro accostamento. Sì, ci sono queste svariate forme delle chiome, sono delle piante che hanno portamento arrotondato, conico, ci sono delle piante che hanno l'aspetto piangente, ricordando il salice, che ne vediamo pochissimi nel nostro ambito, ma che sarebbero piante da riprendere, da ricollocare, e anche perché creano nell'insieme di queste masse che si creano con gli alberi, di questo aspetto cadente, piangente, così, che cambia anche un po', diciamo, la tonalità e la forma di questi gruppi. E dopo ci sono delle piante a forma colonnare, sono delle querce a forma colonnare, dei faggi a forma colonnare, che si staccano un attimino da questa globosità formata da questi alberi, questi grandi alberi a forma arrotondata. Quindi un giusto mix di piante che, lei non si stanca mai di dire, bisogna conoscere prima di piantare. Assolutamente, perché noi dobbiamo pensare, quando abbiamo piantato un albero, per piccolo che sia, dobbiamo renderci conto che assumerà un aspetto molto diverso, perché si alzerà a 30-40 metri, e di conseguenza noi dobbiamo stare molto attenti a questo particolare. Con Amos D'Antoni, l'andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia. Mercato poco attivo, con prezzi stazionari venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 32,70 e 33 euro il quintale, IVA esclusa. L'orzo peso specifico 62,65, tra 28,70 e 29 euro. Discrete contrattazioni invece all'ortofrutticolo di Udine, con prezzi in rialzo. L'insalata gentile viene quotata tra 1,70 e 1,80 il chilogrammo, IVA esclusa. La lattuga trocadero tra 1,50 e 1,60. Le zucchine tra 1,20. Le melanzane tonde tra 0,90 e 1,30. Peperoni gialli e rossi italiani tra 2,20 e 2,30. I cetrioli e i pomodori in grappolo tra 1,40 e 1,80. La scalora riccia tra 2,50 e 2,60. Il radicchio rosso tondo e quello di Treviso tra 2,50 e 2,70. Le albicocche da 1,50 a 2,50, i meloni da 1,30 a 1,80 e le angurie da 0,60 a 1,10. Il settore della pesca attraversa un periodo non facile, causa la crisi economica, di conseguenza i prezzi sono sostenuti. Alla cooperativa pescatori San Vito di Marano Lagunare, i branzini suddivisi in piccoli, medi e grandi sono quotati da 22 a 35 euro il chilo, IVA esclusa. Le orate da 10 a 30, le sogliole da 8 a 28, le ombrine da 12 a 33. Le canocce da 5 a 21, le passere da 13 a 16, i palombi da 5 a 9, i datterini da 9 a 11, le anguille da 21 a 24, le capesante da 15 a 20, le seppie da 8 a 15, i moscardini da 8 a 18, i soasi da 9 a 20 e le mazzancolle da 35 a 40. Mercato diversificato nel settore dei foraggi, dove il fieno mazzengo di pianura viene quotato tra 10,50 e 11 euro al quintale, IVA esclusa, l'erba medica di prima qualità tra 16,50 e 17 euro e la paglia di cereali pressata tra 9,50 e 10 euro al quintale. E con il previsore dell'ARPA Marcellino Salvador diamo uno sguardo al tempo che farà nella settimana entrante. Si sta per chiudere un mese di giugno molto caldo, che avrà una temperatura media tra 2 e 3 gradi superiore alla norma. Solo il giugno del 2003 e quello del 2019 sono stati più caldi. Il consuntivo esatto lo faremo tra qualche giorno. Passando alle previsioni, osserviamo che nella settimana entrante una depressione dall'Atlantico settentrionale scenderà ancora sulla Spagna, favorendo la risalita dell'anticiclone nordafricano sull'Italia. Ci aspetta quindi una settimana di sole molto calda, con temperature almeno 5 gradi superiore alla norma. Inoltre, essendo questa la fase dell'anno con il sole più alto in cielo, e quindi più forte, il caldo sarà accentuato per chi opera all'esterno dall'intensità della radiazione solare che lo colpisce direttamente. Ci attendiamo temperature massime in pianura sui 35 gradi, con picchi anche superiori. Le minime andranno dai 20 ai 23. Sulla costa le minime non scenderanno di sotto dei 25 gradi, anche perché il mare ha già una temperatura superiore ai 26, mentre le massime si gireranno sui 30-33 gradi. Sui monti la temperatura media a 1500 metri sarà di circa 20 gradi. L'estate è cominciata di fatto a metà maggio e prosegue con temperature decisamente superiori alla norma. Di questo passo il mare arriverà presto ad avere una temperatura prossima ai 30 gradi. Ricordiamo che la temperatura del mare in Friuli Venezia Giulia più alta climaticamente sia ad agosto con 25 gradi. Non serve altro per confermare il cambiamento climatico in atto. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano legato al tempo e ai santi. Quan calchiante le furmiar, cirit sotet pes besties e palchiar, ovvero quando canta il torcicollo, uccelletto di passo estivo, cercate riparo per gli animali e per il carro, sto inteso che pioverà. Coordinamento tecnico di Marco Rasi, il nostro indirizzo mail vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Lillo Montalto Monella e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.